dallo proprio sciappone dell'acqua. Scappa, confermo 100%. E a me me le portava da Peppugas, il padre di mio cognato, che aveva 4-5 pecore per loro, dai, se faceva il formaggio e cose, me le portava. Ma erano così buoni, Tony, ma buoni, ma... Scappa, confermo 1000 per 1000. Sì, penso che ho trovato il venditore e la prossima volta è finito da lui. E a 12 non sono cane. L'ho capito già. Che non sono cane a 12. Assolutamente no, perché siamo di lavoro, tra l'altro. Poi sai che hai fatto con l'addensardo e poi chi l'ha fatto, quindi. E infatti. Io ho preso questo formaggio che era veramente saporito, buono, buono, buono. Fatto a Sassari con latte sardo, eccetera, eccetera. Non lo so se è un caseificio che hanno aperto, che cos'è, o se lo farà la Landriga, quei turchi, diciamo, che vanno a disintossicarsi. Poi cioè, ho già pranzo fatto al forno, e poi ne ho un'altra tenda, io ne avevo fatto un po' di tenda, invece, l'ho messo nel pozzetto, col congelatore. E infatti ci ho messo una tendietta e ci abbiamo mangiato quella. E neanche avanzata, la caldeggia è ancora più matta, da 1,4 kg. Copione. Cosa da lì? Copione, anch'io ci ho passato al forno stanotte. Copione, io ne avevo fatto 5-6 tendi, anche uno mio fratello ne aveva fatto, fatto il gonto. Poi mio fratello invece ha evitato, lo voleva evitare, poi c'è la figlia evitato. Anche tuo fratello c'era a Natale? No, a Natale è andata la figlia, invitata. Ha detto, ciao, vengo un altro giorno, non ti preoccupare. Per me è sempre per il Natale. E da te già viene spesso? Viene spesso. Vado io a prenderlo, che è a piedi, insomma. Ah, sì. Non è a patente, tu? Ce l'aveva, ma l'ha fatto cadere, adesso qua fa 80 anni lui, fa l'uomo che viene, c'è la figura di me. E beh, è quella persona più sentita, Emanuele, Gianni, almeno gli auguri di Natale. No, no, non l'ho più sentita, non la voglio più sentire, l'ho tutto, l'ho tolta da tutto, da internet, scusa. Proprio caput, caput. Me ne frega niente, sta arrivando solo lui. Ne ho avuto un'altra dopo di lì, se lo vuoi sapere. Io posso dirti un po', grazie a Dio, questa festa adesso passata, grazie a Dio, dai. Con la persona in cui voglio bene, quindi ci vogliamo bene. Chi è questa persona? Gianni, tu vuoi sapere come tira troppo? Tu fammi le domande, là se te ne puoi fare. Sì, fate la domanda, io non commento. Ah, vabbè. Perché poi non viene a sapere Monica. Già, non si può. Vabbè, non c'è problema. Infatti tu è sempre andata di più. Una nuova ne ho comunque, dai. Sono già 3 mesi. Ciao. E io da quest'estate ci sono. Vabbè, comunque. È così, non è niente di serio. Non ho capito, niente di serio. Niente di serio. Non è che ci siamo promessi di sposarci o cosa. Ah, tu con la tua ex? No, io da quest'estate ne avevo un'altra. Quando uscivo, andavo al Ghero, eccetera, andavo con lì. Ah, ho capito. E poi non ci sei più. E sempre ci vediamo, sempre. Ma siete insieme? È un rapporto libero, capito? Non voglio più rotture di scatole. Dai, io ti posso dire una cosa, la solitudine è brutta, ma anche se vengono pariti tu e quello che vuoi, però ce l'hai sul momento, poi i giorni che passano. E posso dire, una compagna a fianco ci vuole sempre già. Dimmi quello che vuoi, ma è così. Meglio niente, già, hai fatto bene. Una compagna, se ce l'hai, non deve essere un problema, deve essere un piacere averla, allora va bene. E a me è un piacere, cavolo, c'è un piacere. Ma dimmi tu, fai un boccone e un bacino, non ha giù un prezzo. No, è dopo il vaccino che ti devi preoccupare. Ma ho compreso che c'è un rompimento di... Vabbè, lasciamo, sorvoliamo. Non mi voglio incazzare. No, non ti puoi incazzare, che vicino c'è... C'è quello lì col mattarello vicino in mano. No, non c'è. Sto parlando così perché proprio perché non c'è. Approfitta. Poi c'è a vedere anche le situazioni, giustamente. Non è che uno dice, non puoi fare da un fascio tutto un'erba. Tutti così, so tutti così. Tutti dovrebbero i miei denti. Da voi, cazzo, cominciano a rompiti i ricattoli. E Gianni lo sa. Che mi ha fatto va, che dico su me ha ragione, ragazzo, nessuno mi rompia i ricattoli. Ogni tanto navigo una nuova. E dovevo ridere solo contro me, compreso. Me medesimo. Invece no, adesso cazzo, quando sei fisso, devi rendere conto pure a lei, hai capito cos'è il discorso? Che così, se no ho capito. Ma quando due vanno d'accordo, giustamente, è il 50%. Ah no, meglio niente, già messo che andando. Troppo bene. Io non è che non ce l'ho, ma non è niente di serio, né? Quando ci vediamo, il sabato usciamo, eccetera, però io non glielo ho detto già che non mi voglio impegnare seriamente, gliel'ho già detto, a lui va bene così. E così sia, troppo bè, senza impegno. Gradita ospite, da voi che non ti piace, tu ti fai la bella curu e te ne pigli un'altra. E quanto puoi andare avanti così? Io ho girato il sesso molte alla fine ho detto basta, perché gli anni passano e bisogna essere una bella coppia, quando vai d'accordo in tutto per tutto, non so, gli altri non te ne affutti nulla. Però le cose si dividono il 50%, non bisogna essere troppo maschilisti, non ho capito. La maschilista. Io sono d'accordo con te, Tony, se uno va d'accordo è giusto che ci faccia una compagna, però per darti problemi è meglio che te ne sei da solo, meglio solo che me ne accompagnate, Zaghi, se no un'altra. Infatti, se arrivi d'accordo che non ti rompi mai i ricattoli, che tu su il tu di e giù, allora tutto andrà bene. Ma se comincia a rompiti i ricattoli, lascia verde. Se uno va d'accordo che non ha problemi, allora non deve essere un problema. Ha ragione Gianni, deve essere un piacere, non un problema. Ma un piacere a due belle parti però, sia l'uomo che anche la donna. Ehi, infatti io sto dicendo così, deve essere un piacere, non un problema. Ovviamente bisogna rispettare e fare cose uguali. A me mi hanno confermato il sesso a fianco a me che non è così come dite, quindi c'è qualcosa che non va allora. Ma, boh, non so cosa dirti. A me, aspetta un attimo chi... Cos'è Tony? Chi è che te l'ha confermato che quello che diciamo non è giusto? È quella che c'ha fianco a me, giustamente. E lei l'ha fatta così, ma io noi no. Perché in base alle tue situazioni tu pensi, hai modo di pensare diverso. Vuol dire che lei ha avuto delle situazioni che magari non le fanno pensare questo. Dall'esperienza tu ne trai sempre le conclusioni, no? Ma giustamente se io mi comporto bene con la persona in cui una cosa la devi fare, la devi dire in due, la bisogna fare, non tu da sola e poi glielo faccio sapere sbagliato, oppure lei viene a scoprire a cosa ha fatta. Le cose si dicono, si decidono in due, sempre, su tutto, su tutto. Tony, sono cose risolute queste qua, non è che mi stai dicendo nulla di nuovo. Però ci sono persone che ci sono sia maschi che femmine naturalmente, che praticamente non gli va bene niente, che fai la cosa, non vogliono uscire, non faranno, alla fine ti rompi le scatole e preferisci stare da solo. Poi è giusto anche che il fatto di stare solo è brutto quando invecchi, specialmente è una cosa brutta, però io lo so o non lo so, quindi c'ho la compagnia, c'ho gli amici, c'ho tutto quanto, non mi manca nulla. Quello che vuoi Gianni, io ho amici lo stesso, però a me la cosa più importante degli amici è la compagna, che ho vicino a me, perché mi dà un calore che ripeto lo do anch'io, e quindi automaticamente a me mi interessa tenere brava la persona, giustamente mi comporto bene, lei si comporta bene con me, quando duro mi dice vado davanti, stai tranquillo che la cosa dura, e hai una compagnia per la vecchiaia un domani, giustamente, per 20 anni sarò scorretto, veloce, ce lo sai. La guida è volente, lo messo da volando, gli anni lo stesso, arriva a una certa età che non riesci più anche a camminare, e cosa pensi? Che vengo gli amici che sono più vecchi ancora? Dai già. Sì, vabbè, io per il momento sto così. Poi se mi va bene la storia, ne abbiamo parlato diverse volte con lei. E praticamente per il momento non me la sento, tu lo sai benissimo, hai anche vissuto quello che ho vissuto io perché ci eri davanti, quindi lo sai benissimo come si comportava lì, e quindi adesso non me la sento, sono stato già ascoltato, di mettermi una persona in casa non me la sento, ci vediamo fuori, quando dobbiamo uscire usciamo eccetera, poi se mi va a continuare continuo, se no moro, non c'è problema. Ma io stavo riflettendo a quello che tu mi hai detto poco fa, cancellata tutto per tutto, che sono internet eccetera eccetera, ma l'ultima volta che siamo visti tempo fa mi ha detto ah sì, mi ha mandato dei cuoricini, che cazzo bene, questo me l'hai detto tu Gianni. Sì, è vero, è vero, infatti da lì l'ho tutta eliminata, da quel punto lì, da quel punto lì poi l'ho cancellato, perché mi ha mandato anche dei duetti che ha fatto lì cantando eccetera, ma a me non me ne ha fatti nulla, capito? È inutile che lei mi mandi la roba perché a me non me ne frega niente, proprio me ne è scesa totalmente. Già, vabbè già. Ok, cambiamo discorso. Ok. Ma Tore cos'è? Scomparso? No, sto già cucendo a voi. Mi piace avere una cosa del genere, così allora vado lasciato tranquillo. Sì, ma tu come la pensi tu? Ah, io ho preso... Metti esci, esci. Sono tranquillo io. Ecco, se tu dici non ci avevi tua moglie, che eri tranquillo, una compagna penso te l'avessi fatta per la vita, penso di sì, Tore, dai. Se non aveva avuta, me l'abbia giunta sarà giù da buco. La solita male, la solitudine non può sapere, lo sapete, fate bravi. Poi Natalia adesso manca concetta, e chi te le alzi come mandare la capa per il suo. Punto Baghissu, a chi io mi comporto bene, e lei da me rompere i catturi, e non è giusto. Quello no, cioè è vero. Comunque questa è bella mia, già di la verità. Se non mi raccogliete, chi è che mi ricordi come fatta la camera, Natalino? Dai, concetta è simpatica, dai. Già è simpatica a volte, Natalino. Oh già, ma meno bella è quella che c'hai. Cosa vuol dire bella? Sì, è una bella persona. Io guardo molto la bellezza interiore più che di quella esteriore. Comunque è una bella donna. Sì, ma interiori ok, ma esteriori giustamente anche lui per la sua parte, fisicamente, eccetera, eccetera. Sì, anche la cliente di mio padre, quando la madre di questa ragazza gli ha detto signor Mario, lo dica lì, che si è messa con lui che beve. E io non riesco a farglielo mollare, lui dica lei che c'ha confidenza, mio padre, e io mi devo mettere in mezzo alle cose vostre. E glielo dica perché con lui c'ha confidenza, mio padre ha detto, ma è vero che ti sei fidanzata? Sì, dicevo, ma li voglio bene, questo e quell'altro. Io ero andata con l'occhio nero, questa qua gli ha detto. E anche lui che vuole la sua parte, gli ha detto mio padre, visto, anche lui che voleva la sua parte, perché lui ha detto che anche lui che voleva la sua parte, no? E lui ha detto, visto, anche lui che voleva la sua parte se l'ha presa. Ma non era in quel senso lì a farlo ci dietro. Vabbè. No, una bella ragazza. Una bella ragazza, sì. Beh, io ragazze brutte non ne ho mai avuto. la lo sa anche Nazzarino, li ha conosciute le mie ragazze qui. Scappa. E tu poi, la Monica già l'hai conosciuta. Va, questa è più bella ancora. E l'ho conosciuta al bar, a quel bar là, dove siamo andati a berci il caffè dopo 100 anni fa. Cent'anni fa. È capitato per caso che era lì con quella che assiste lì, e quindi... Andata bene bene. A proposito, Carlo, non l'ho più sentito. Carlo aveva problemi che non c'era il capo dell'antenna, perché stanno finendo i lavori. Già entra quando mette tutto a posto. È entrato anche cos'è, ieri o avanti ieri, mi pare. Ah ecco, no, vabbè, io forse non c'ero, Lazzarino. Non c'ero forse. Sì, non ha nessun problema, ha detto. Mi sembra che ha rimpiazzato il capo, perché lui l'aveva tolto, non stava entrando per quello, perché stavano facendo i lavori, lo sai, no? Sì, ma l'avevo detto, quello 110%, ma l'avevano quasi finito, mi sa. E infatti la torna ad attaccare un gabo. Gappa, gappa. E tu Tony, 110% non lo chiedi. Non ho capito. Ho detto 110% hai riparti tutta la casetta, non te lo chiedi. Ma sta scherzando, a me manca un tragetto, non puoi darsi. Ma non mancava di chiamare a Gabisuli. L'altro è venuto a pensare che era nuovo, vengo a gliela farò capire la prossima ragazza. Ormai c'ho il contratto 4 anni e gioco a pugno. E con calma c'ho tutto il tempo che cerchiamo altra casa. Infatti l'ho detto io. Guarda che adesso facciamo il contratto. Guarda che se prassi in mano, trovo una casa, ma sto andando via, ti mando qua paese, non ho capito. E lui, vabbè, non c'è problema, ok, per adesso rimango il tempo che ho, poi si vedrà. Niente, su di mano gliela sto appilando, bonifico, e poi si do affitto, mese e tot, capito? Per gennaio, febbraio, quello che ho pagato già dicembre. Papà, dove si paga l'affitto con l'assegno, così gli fa la fotocopia e ti rimane la fotocopia firmata da lui, almeno non fugge. Beh, non c'è il nome e cognome suo, il suo codice IBA non scappa già niente, nome e cognome e poi affitto per mese affitto e tot, lì non funge. Poi niente, mi ha incluso da 350 a 30 euro fissi al mese per l'acqua, perché il contatore ancora non me l'ha messo. Io penso che forse lui ci dà molto più di acqua, anche io mi lascio con la macchina, mi nappio pure l'erba, non me ne appunti nulla, nappio tutto, anche il cielo è nappio. E infatti tu usa la comana di usare, sta di nappio. Infatti, questo 30 euro, invece al contatore, però il giorno fa, no, vabbè, lascia 30 euro, ok. Invece il consumo è già, vale fatto. Vabbè, troppo. Allora sì che non mi risulta nessuno, il contratto ce l'ho e tutto a posto, fermato lui, fermato io. E la giornata si attacca al tranno, che zia, e a gennaio se ne deve andare via, che viene mia suocera, ma è fatto il brutto vai, così cosa dice Ghida invece. E vabbè, ma per stare sempre in lotta così Tony, io mi avrei preso la casa stasera, se non ci aveva mandato in ora a mano. Ma si può vivere, ascolta, ma poi quella di scale l'aveva trovato quella di tutti. No, per me era un rubato, quindi non so, ne sono portato via. Mi auguro che sia ancora vivo, lo trattano bene, perché era anche malato, era, aveva smaniosi poverino, ma lui lo stava curando. Comunque si è deciso di prendere un altro, sarebbe il fratellino di quello che c'aveva lui, Gnogna lo chiamava, Snoopy. E lui ha detto, prendo per i due figli perché è un cane, è sempre un cane, e poi a me era un bel simpatico il suo cane, il suo Jack Russell. Poi Tony, un'amica mia gli ha morto il cane, e mi ha mandato una fotografia del cane morto, ci ho portato un bignetto, c'era la di Vicente che mi ha morito in te li mangi. E prima o poi la fine dobbiamo fare da tutti, non solo gli animali ma anche noi. Io più quando ce l'ho li tratto bene, grazie a Dio, voglio bene, perché per me sono come figli, li tratto così. E guai a chi tocca il cane, io anzi da quando c'ho il cane dico una cosa, cioè se vedo uno maltrattato il cane mi incazzo, perché non va bene a maltrattare un cane, stiamo scherzando. È l'unico, infatti dicono sempre, meglio un cane amico che un amico cane. Il cane non ti tradisce mai, ricordate, tu già lo sai che c'era il cane. A buia, adesso lui è coricato qua vicino a me, vicino si è messo, io sono sdraiato nel letto, lui si è messo sul tappeto nel letto, praticamente a fianco al letto, dai non scendi letto, se quei cartoni sta fermo lì, sì, quando io mi muovo, come muovo c'è anche lui, è la mia ombra, sempre appresa c'è. E io lo stesso, uguale, ce l'ho vicino a me, tra gli altri, sapete, più giorni che mi ho gli occhi, mi metto gli occhi, che adesso ogni tanto, neanche l'altro. Natalia ho preso uguale identico, il cane ce l'ha vicino a lui. Ebbene Natalia, a proposito del cane. Sì, già si è, già è guarito, là, già si è ripreso. Meglio così, dai. Dottore, invece cane non hai. Mi piace andare da me. Se tremurelli, cioè, che intende a questi ragazzi che gli sanno dei nomi. Italiani sempre lampenni bombetti io. Oggi sono dal Manzano so, così. Tu sai che non l'ha già infinito di mamme di dare denaro ai cipicini. Ah, poi se cane di denaro per pagarsi i bulletti. Lei può mettersi nei bulletti da Reci i cipicini. C'era anche il divieto del SIDA perché non si possono fare i butti, anche per gli animali che fanno paura, anche gli anziani, poverini che si tremoleggiano, non solo gli animali. E che cavolo, invece no. Ecco signore che a mezzanotte non parliamo con la bombetta, poi doveva scorreggiare per fare il rumore, te lo dico io, che la bombetta non è finita. Ma sai cosa è? Significa da voi di dove deve andare a cercare di nappa a pagarsi i bulletti a chi non fa ne di nappa. Allora vedi, come dire che fai un bombetto tu fidi un rumo, vai a cercare e ti paghi i bulletti. E una signora non è giunta, si era aggiuntavo, ha detto e facciaci da rubi da tanto figliolo mi viene dato l'idea per comprarsi i bombetti, ma è chiavi ha già arrivato la gianna in faccia. Hai fatto bene e via, infatti a che età ci ha parlato le bombette così e già Gianni, è andato in bagno? Ho si è cagato in nato. Si è cagato in nato? Però di la sa cosa vale. Bambù. Si è cagato in nato. E cos'è a cusi Oioi, bambù. Andiamo per andiamo. Dai, io vi lascio che devo andare a preparare qualcosa. Ci sentiamo alle prossime, auguroni. Al limite al nuovo anno ci sentiamo. Ok, ciao Natali, di nuovo auguroni che davanti in attacca sedente, cioè, ci sentiamo, ci diamo gli auguri. Ok, auguroni a te e a Concetta. E anche un bel bacione anche a niente, dai, che a me piace troppo anche a niente. Ciao, buon pomeriggio. Ok, buona cena quando la farete. Avanti tu. Sì, ci risentiamo Natali alle prossime, ok, auguroni. E non farò ronfio canuti, cerca di andare bene. Va benissimo, ci risentiamo. Mi sa che c'è arrivo pure andare giù dalla signora. Ci risentiamo, Tony. Ciao Gianni, alle prossime. A risentirci. Ok, ciao anche a te Tore, auguroni in tal caso, lo sentiamo. E se no domani sentiamo, se no domani pomeriggio va bene comunque. Ricordo a capi salutone tra quanto. Stammi bene, buona cena, buon cenone e buon tutto, stammi bene. Alle prossime, Gianni ci sei? Ok Tony, ci risentiamo, auguroni. A risentirci alle prossime, ok, io sto chiudendo. E auguroni a tutti, dai, ce l'ho al telefono e me l'ho chiamato, Tony. Dai, faccio gli auguri a tutti e sto chiudendo, dai, ci sentiamo. Buona serata a tutti. Ok, anche a te, ciao Gianni, buon correttivo.